Buongiorno a tutte e benvenuti a questa trasmissione sperimentale dalla zona rossa di Milano. Oggi è il 15 marzo 2020 e come sapete siamo blindati ognuno a casa sua, a causa della pandemia. Abbiamo chiamato la trasmissione Loco 19. Amabilissime lettrici, ogni volta che pensiamo a voi ci rendiamo conto di quanto sarà gravoso affrontare questa lettura. Il doloroso ricordo della recente peste ancora non ci ha abbandonato, eppure non possiamo fare a meno di ritornarci. Certo, solo chi ha visto con i propri occhi l'orrore di quei momenti, chi ha sperimentato fino alle viscere l'assurdità di quei disastri, può comprendere. Eppure basta così poco per illudersi che non sia mai accaduto nulla. Le più giovani già non ci credono più o diffidano apertamente di quelle che definiscono dicerie dei vecchi. Ma noi sappiamo bene quello che accadde e la memoria, ingranaggio collettivo, ha bisogno di essere oliata con i nostri resoconti, per quanto tragici. Ma per evitare che abbandoniate di botto la lettura, sappiate che questo inizio deve essere preso come un'erta montagna, un sentiero difficoltoso che improvvisamente si aprirà su altopiani aperti e rigogliosi, lasciando spazio a possibilità inimmaginabili. Bene, buongiorno a tutti. Questo pezzetto che vi ho letto è tratto dall'introduzione di Internet Mon Amour, un bel libro di Agnese Trocchi e di tutto Circe stante per il Centro Internazionale di Ricerca per la Convivialità Elettrica. Vi abbiamo avuti ospiti di Lost un po' di tempo fa e saranno ospiti anche oggi, ospiti virtuali di questa specie di trasmissione sperimentale che ci accingiamo a fare. Diciamo che dovete avere molta pazienza e tolleranza, non siamo esperti, è una prova e quindi vedremo di fare il possibile. Che cosa succede? Avevamo in programma, nella programmazione di Lost abituale, una puntata con il gruppo Tracking Exposed sulla profilazione e il tentativo di soddisfazione dell'utente, in particolare applicato al sito di Pornhub. Doveva essere oggi pomeriggio. E la programmazione nostra, come di tutto il centro sociale Conchetta che ci ospita abitualmente, è stata, e come la programmazione di qualsiasi altra attività collettiva nel territorio nazionale, è stata travolta da un evento inimmaginabile, che in qualche modo ci riporta alle parole del libro di Circe di cui dicevo prima, paradossalmente. Cos'è Lost? Lost è un gruppo che comprende la Club Unit di Milano, il centro sociale Conchetta 18, Calusca City Lights e l'archivio Primo Moroni, più una serie di altri aggregati e amici che ci stanno, che ci aiutano e che dal febbraio del 2018, ossia diciamo da un paio d'anni del mondo di prima, si occupa di fare della critica della scienza e della tecnologia. Ha un sito che si trova all'indirizzo lost.abbiamoundominio.org e dove ci sono in podcast riduzioni degli incontri che abbiamo fatto finora. Sul sito invece del stream di Conchetta, del Centro Sociale Conchetta, ci sono gli incontri sono messi integralmente. Diciamo che era inevitabile per noi un intervento su quello che sta succedendo in questo momento. È una situazione che in qualche modo ci lascia tutti, io penso, un po' impreparati. E non è facile in qualche modo tracciare delle linee nette, non vogliamo nella maniera più assoluta discutere della gravità della situazione, riteniamo però necessario iniziare un ragionamento critico di osservazione per capire un pochino meglio col tempo sarà necessario che cosa sta succedendo. libro di che vi leggevo prima, la catastrofe era, diciamo, data dall'uso, generata dall'uso spasmodico e in qualche modo deviante degli strumenti della tecnologia digitale. Vi è una sottile analogia con quanto ci sta succedendo adesso, perché possiamo dire che in alcun modo sarebbe potuta avvenire una cosa di questo genere se non ci fossero stati internet e gli strumenti e una totale globale interconnessione delle genti, delle popolazioni ad una rete comune. Noi, allora, a causa dell'apparizione di questo virus in Cina il 31 gennaio 2020, l'Italia attiva uno stato di emergenza straordinaria per 6 mesi. Dopo una settimana, cioè il 7 febbraio, vengono trovati positivi al tampone due cinesi che venivano dalla provincia di Wuhan. Dopodiché non accade nulla fino al 21 febbraio del 2020, in cui viene trovato a Lodi un ragazzo positivo a tampone che gli era stato sottoposto, forzando la normativa dell'ospedale, che non l'avrebbe previsto. Una dottoressa, un anestesista in particolare, ha chiesto al Ministero della Sanità di poter effettuare questo tampone perché non gli tornava il decorso di una polmonite di questa persona. In questo momento, da circa una settimana, praticamente l'intero, cioè a distanza di meno di un mese da quell'evento, l'intero paese è chiuso in casa. Cioè, poi non è vero che è l'intero paese, perché la parte è stata esclusa da questa procedura, la parte produttiva, la parte del commercio, sia per quanto riguarda il commercio e i servizi essenziali, sia per quanto riguarda la produzione dei servizi che anche essenziali sono un po' meno. Quindi, diciamo, dei 60 milioni di italiani, diciamo che una quarantina sono domiciliati e una ventina, forse un po' meno, va bene, sono tenuti a circolare più o meno come facevano prima. Ora, perché dicevo che questo che ci sta succedendo è immerso nella tecnologia digitale? Noi siamo tempestati di dati e di informazione che determinano gli umori, le risposte ed anche le conoscenze e i tentativi di capire. Abbiamo una protezione civile che alle 6 di ogni giorno fa una conferenza stampa e pubblica dei dati che probabilmente hanno un indice di ascolto più alto di qualsiasi puntata di Sanremo. Questi dati doviziosamente riportano gli aggiornamenti e su questi dati vengono tratte delle conclusioni e in qualche modo è il materiale che serve per elaborare fare delle considerazioni. Devo dire che di questi dati ne manca uno, che forse è impossibile avere in questo momento. Io non conosco gli strumenti epidemiologici, non sono medico e quindi non posso permettermi, diciamo, di alcuna considerazione, se non il fatto che il dato che viene fornito è degli infetti e il dato degli infetti che sono risultati positivi al tampone. Il tampone viene effettuato sulle persone che presentano evidenti segni di contagio e quindi noi abbiamo un'idea abbastanza precisa del numero delle persone che stanno male. Non abbiamo alcuna idea del numero delle persone che sono entrate in contatto o sono a tutt'ora in contatto con questo virus e che male non stanno. Se voi andate a vedere il suo epicentro, che è il sito dell'Istituto Epidemiologico Italiano, nel caso di un'influenza normale, per esempio quelle che sono in corso adesso, viene data una stima di quelli che sono gli ammalati e è indicato che per esempio di questi meno del 60% è andato dal medico. Gli ammalati dell'influenza ordinaria in questo momento in Italia, quelli che ci sono stati per questa stagione invernale, sono contati intorno ai 6 milioni di persone. Allora, perché dico che questo dato sarebbe importante da avere? Perché sul dato dei tamponi positivi vengono valutati il tasso di letalità e in qualche modo si ha una stima della pericolosità di questo virus che è in una certa misura inattendibile, perché se io ho 1.000 ricoveri su 10.000 positivi ho un tasso del 10%, se io ho 1.000 morti su 10.000 positivi ho un tasso del 10%, se io ho 1.000 morti su 100.000 positivi c'è un tasso dell'1%, se io ho 1.000 morti su un numero di infetti di 1 milione, cosa che anche in qualche modo l'epidemiologa Capua a un certo punto no, ha detto che poteva essere, allora la percentuale cala molto. Che cosa vuol dire questo? Questo alza la temperatura della preoccupazione, alza l'ansia. E in qualche modo contribuisce a generare un clima più teso, forse più teso. Non so adesso. Un'altra cosa che volevo notare è che sempre nel sito della Protezione Civile vengono dati questi dati, viene fornita una bella mappa in cui vengono riportati il numero degli infetti totali. Quindi noi abbiamo il cumulativo di tutti gli infetti, compresi quelli che sono guariti e quelli che sono deceduti, quindi non di quelli attuali. Questa mappa, nella mappa mondiale che usa questo stesso motore, c'è la possibilità di vedere gli attuali e i totali. In questa mappa qua si vedono solo gli infetti totali. Questa mappa ha dei valori quindi che sono destinati a crescere continuamente. Fosse anche possibile arrivare all'ultimo paziente affetto da questo coronavirus, la mappa avrebbe dei valori sempre crescenti. Anche questo non aiuta ad avere una visione obiettiva di quello che sta succedendo. Terza cosa, un'altra considerazione è che questo evento viene a gravare su un sistema sanitario fortemente affaticato, come dire, ridotto un pochino ai minimi termini. Un sistema sanitario probabilmente buono, ma deprivato di strutture e di persone. Primi giorni di febbraio, quindi prima che questione esplodesse in Italia, il sindaco di Cremona minacciava di fare un'ordinanza di emergenza sanitaria perché il suo ospedale non aveva personale e mezzi per poter funzionare. Dopo 15 giorni, quello stesso ospedale era sulle pagine di tutti i giornali perché aveva troppi malati di Covid-19 perché, diciamo, sfortunatamente la città si era trovata ad essere un epicentro di questa diffusione di questo virus e la struttura si era saturata velocemente. Ecco, quindi in qualche modo questa velocità nella circolazione dell'informazione e la tipologia dell'informazione che viene data contribuisce a generare il clima che noi in qualche modo stiamo attraversando e che fa sì che contro ogni vento e marea, in questo momento le città abbiano tutte un aspetto assolutamente spettrale, con l'assoluta, forse giusta, diciamo pure giusta, azione volontaria delle persone, insomma, dei cittadini. Ecco, allora, adesso, quindi, non voglio andare molto avanti, dico solo due cose che. No, un'altra cosa, scusate, volevo dire, per contrario, diciamo, la tecnologia è anche in questo momento un'impossibile via d'uscita, cioè la risorsa che uno ha per in qualche modo cercare di trovare connessioni, collegamenti, eccetera, è esclusivamente tecnologica. Quindi, in qualche modo, un po' il libro di Circe si ribalta per certe misure. E sarà poi interessante, siccome loro ci sono, vedere se hanno delle informazioni a proposito. Va bene, chiudo la questione, passerei la parola a Maurizio Pincetti, che è medico e che si è occupato molto del Servizio Sanitario Nazionale, perché ci dica una sua parere su questo fatto. Buongiorno a tutti, io sono Maurizio Pincetti, sono un medico, un internista endocrinologo che ha lavorato 36 anni in ospedale pubblico e che ha avuto anche un'esperienza di 11 anni come medico di medicina generale, allora si potevano sovrapporre le due cose. Mi sono occupato di qualità e rischio delle cure dell'assistenza sanitaria, sia da un punto di vista della ricerca che come applicazione, come responsabile qualità e rischio all'interno di un ospedale pubblico milanese. In questi giorni si ascoltano molti commenti e critiche di ogni tipo, ai decisori, al sistema sanitario, alle decisioni prese, piuttosto che agli operatori. La prima cosa che viene da pensare è la scarsità di informazione da parte di molti circa il sistema sanitario, di cui l'evento eccezionale sta stressando il funzionamento. Direi che sia allora essenziale un po' di ordine, per riportare le semplificazioni a una complessità dovuta del sistema. Si parla tutti, cioè in questi giorni, alla televisione, alla radio, di degrado, di depauperamento del sistema sanitario, di carenze di letti, soprattutto di carenze di attrezzature. Le carenze di fatto sono soprattutto di risorse umane. Il sistema in generale si basa sulle risorse umane, è un'attività alla persona e dal 60 al 70% delle spese della sanità sono in risorse umane. La carenza di attrezzature può rivelarsi in momenti di stress comunque, perché non è detto che ci sia una tal riserva di attrezzature nella normalità, nel corso normale delle cose, per affrontare eventi del tutto eccezionali. Pur non volendo tediarvi con elenchi, mi è impossibile evitare di parlare di fatti. Se non vogliamo rimanere nel vago, e ancora sempre nell'ambito di opinioni. Il sistema sanitario non mi sembra che sia stato degradato, ma piuttosto credo che non sia stata realizzata la sua completezza. Al contrario di quanto è avvenuto in altri sistemi sanitari, per citarne uno, quello inglese, in cui da partire da Margaret Thatcher in poi, con tutti i suoi successori che si sono impegnati nello smantellamento del sistema. Qui da noi non si è assistito, secondo me, esattamente a uno smantellamento di sistema, ma piuttosto a una grossa difficoltà di completamento e negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi anni, a un depauperamento, della numerosità delle risorse umane necessarie. Prima non è che ci fosse. Se noi ci riferiamo agli anni 60, 70, non eravamo in presenza di un ottimo sistema che poi pian piano è andato funzionando di meno. Al contrario, la storia dell'ospedalità italiana, perché è sempre stato ospedaleocentrico il sistema di cure, in Italia, come spesso nei sistemi occidentali, parte dalla legge 132 del 68, la famosa legge Mariotti. È lì che si fa la riforma ospedaliera. Prima ci sono le mutue, c'è una enorme differenza sociale nell'accesso alle cure e gli ospedali sono gestiti direttamente da realtà sovraospedaliere, da istituzioni sovraospedaliere. Qui si istituiscono invece gli enti ospedalieri e si formano gli ospedali zonali, provinciali, regionali, si comincia a pagare sulle giornate di degenza. Non è un caso allora che le giornate di degenza fossero moltissime negli anni successivi, perché più erano numerose le giornate di degenza e più si aveva una retribuzione degli ospedali. Si ha anche una corsa ai letti, perché più si hanno letti e più si hanno giornate di degenza. Questo è un sistema tutt'altro che virtuoso. che avrebbe necessitato successivamente di un correttivo molto muscolare, diciamo, per poter rientrare nelle spese che successivamente si vedono innalzare anno dopo anno, soprattutto negli anni Ottanta. L'incremento delle spese è dovute sanitarie, è dovuto fondamentalmente, riconosciuto da tutti, all'incremento dell'età media della popolazione. Sappiamo tutti che la maggior parte delle spese sanitarie si svolgono nell'ultimo anno di vita, e con l'incremento dell'età media della popolazione c'è l'incremento della multipatologia, il che significa una complessità operativa da parte del sistema sanitario nazionale mai prima messa in atto. Altro elemento di spesa è l'arrivo della tecnologia. L'incremento di tecnologia dagli anni 70 a oggi è incredibile, e è tecnologia dedicata sia alla fase diagnostica che alla fase terapeutica. La corsa ai letti, dicevamo, degli anni fine anni 60, inizio anni 70, prosegue aumentando la numerosità dei letti disponibili. Numerosità dei letti significa anche numerosità degli operatori, significa anche potere da parte dei loro patrocinatori. Cioè, più è importante il sistema e più coloro che lo muovono hanno una valenza strategica anche ai fini poi dell'ottenimento del consenso. Cioè, i letti ospedalieri, così come i centri ospedalieri, diventano dei sistemi di scambio, cioè entrano nella numerosità degli elementi di sistema di scambio per l'ottenimento del consenso. Nel 1969 si ha il DPR 128 che va a perfezionare la legge precedente e si occupa di definire i servizi interni degli ospedali e di definire quali sono le attribuzioni di personale. Medici, caposala, infermieri, personale ausiliario vengono definiti tutti nel 69. Prima la quantità di persone è molto esigua negli ospedali e soprattutto mal definite le loro funzioni. La catena gerarchica, definita dall'articolo 41, mette in dipendenza le funzioni infermieristiche da quelle mediche. Negli ospedali regionali viene istituito in quegli anni, cioè nel 69, il servizio di virologia, che lo vediamo estremamente attivo in queste giornate. Da quel 1969 il tempo minimo di assistenza per malato viene fissato a 120 minuti. Non cambierà mai, quei 120 minuti non cambieranno mai. Non sono cambiati neanche a tutt'oggi, essendo divisa la sanità per criticità di assistenza. I servizi, diciamo, che hanno l'assistenza di base, cioè per intenderci le medicine piuttosto che le riabilitazioni, hanno una quantità di assistenza di 120 minuti, come era nel 1969, tenendo conto dell'incremento della multipatologia, dell'età delle persone e della complessità tecnologica per la loro assistenza. Nel 78, nel maggio 78, c'è la legge molto importante sulle interruzioni di gravidanza, la legge 194. Sempre nel 78 la legge 833, cioè la 833 del 1978, è quella che fa nascere il Servizio Sanitario Nazionale, così come lo vediamo ora. È la legge che si ispira al Servizio Sanitario Nazionale inglese, il più avanzato in quel momento nel mondo, che mantiene tutte i principi, i valori universalistici nell'accesso alle cure, valori universalistici che noi troviamo all'interno della nostra Costituzione all'articolo 32. Con la 833 si ha una riforma completa del sistema sia ospedaliero che territoriale, e le difficoltà che si vedono in Italia nel completarla sono notevoli. È un salto che viene effettuato non a tavolino, diciamo, nel momento in cui si stabilisce questa legge e che trova parecchie difficoltà sul campo. Difficoltà anche dovute all'incongruità dei vari poteri che si alternano nelle decisioni all'interno del sistema. Ricordiamo tutti il sistema baronale che arriva dall'università e che garantisce una buona competenza degli operatori, ma ha una serie di difetti enormi legati alla clientela e a un potere assoluto che non può essere più compatibile con quegli anni. Ma poi ricorderemo i danni fatti dal potere politico nel sostituirsi al sistema baronale di quegli anni. Dicevo prima, incrementano i costi negli anni 80 soprattutto, incrementano i costi al punto da far prefigurare che non si regge, che il sistema non riuscirà a reggere. Pertanto, se si vogliono mantenere le capacità di offerta congrue con la richiesta che viene analizzata dei bisogni di salute, occorrerà arrivare alla legge De Lorenzo del 31.3.92, la 592 del 92, per alcuni tristemente famosa, per altri invece un elemento di innovazione positiva in Italia. È quella che stabilisce i DRG, se vogliamo, è quella che stabilisce che il pagamento non sarà più per giornata di degenza, ma sarà per prestazione complessa, cioè sarà riferito alla tipologia della patologia che viene curata. Un altro punto essenziale della sanità lo si incontra nel 2001 con la legge costituzionale 3 del 2001, cioè il decentramento della sanità, il decentramento con la riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, che dà peraltro piena attuazione all'articolo 5 della Costituzione, che riconosce le autonomie locali. La sperimentazione delle autonomie locali viene effettuata sulla sanità, che d'altra parte è l'elemento maggiore di spesa di tutte le regioni, ma non maggiore e basta, cioè è praticamente i quattro quinti della spesa di ciascuna regione. In Lombardia, qui le regioni iniziano a modificare l'assetto di ciascuna regione relativamente alla sanità. E qui inizia la distorsione che conduce a un sistema sanitario che non è più nazionale, ma è regionale, introducendo delle enormi differenze di possibilità, soprattutto ovviamente fra le regioni del nord, che sono relativamente omogenee fra loro, e le regioni del centro-sud, che non sono mai riuscite ad arrivare, alcune di loro neppure a fornire i livelli di assistenza, riconosciuti come livelli minimi di assistenza. Io penso di aver occupato tutto il tempo che avevo a disposizione, per cui avendo anche altre cose da dire, ma passo la parola in quanto ritengo che di aver già fornito un'immagine di sistema e poi semmai intervengo successivamente. Vi ringrazio. Va bene, grazie Maurizio. In realtà ho sbagliato io, forse sono stato già troppo lungo anch'io. E io direi che adesso passiamo la palla a Tracking Exposed, che sempre sul sistema sanitario aveva qualche cosa da dire. Sentiamo, sì. Ok, dunque, volevamo parlare di Google e Speranza. Non è la prima volta che capita magari di sentire queste due parole accostate. In questo caso però magari parliamo di Speranza, il nostro ministro della salute, che ha fatto degli accordi proprio con Google e YouTube. Che cosa ha detto? Dunque, ha detto che le piattaforme indirizzeranno verso il nostro sito, quindi il sito del governo, tutti gli utenti che cercheranno notizie sul nuovo coronavirus. e in corrispondenza anche di video particolarmente rilevanti. Quindi una pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute, visibile per tutti gli utenti che hanno impostato l'italiano come lingua sulla piattaforma YouTube e Google. Quindi un'azienda terza che regala spazi pubblicitari, come è successo per altri media, per esempio la TV, alle istituzioni. Quindi in una situazione di emergenza lo Stato centrale assume maggiori poteri e fa cose che anche normalmente non farebbe. Invece, altra questione sempre riguardante YouTube, è stato confermato alcune settimane fa con una sola frase che la policy sugli eventi sensibili di YouTube avrebbe demonetizzato i video riguardanti il nuovo coronavirus. Quindi il dibattito sulla demonetizzazione, che era già comparso l'anno scorso dopo la demonetizzazione delle conspiracies, si è intensificato con YouTube che sceglie dall'alto quali video permettono poi ai creatori di guadagnare. Ma il problema è che YouTube sembra essere incapace di stabilire in maniera chiara che cosa sia un video corretto o buono, informazione corretta, migliori di altre o il contrario. Quindi questo problema è tanto preoccupante quanto i video falsi, perché se da un lato vi è un aumento della disinformazione, YouTube corre il rischio di invece chiudere l'accesso a informazioni reali e importanti dall'altro lato. Quindi Aggiungo due cose appunto su Tracking Exposed, che è un progetto che cerca di costruire della tecnologia per fare analisi degli algoritmi di varie piattaforme. E quindi noi abbiamo detto, come diceva appunto Giulia poco fa, che YouTube diciamo, ha dato la possibilità di mettere in alto, quindi di far comparire a tutti gli utenti in lingua italiana di YouTube uno spot che rindirizza al sito del Ministero della Salute. Quello che vorremmo chiederci noi è invece, al di là di questi messaggi che sono fissati in alto per tutti, come funziona il sistema di raccomandazione, quindi diciamo l'algoritmo di YouTube su questi temi. Oggi avremmo dovuto fare appunto un evento dal vivo proprio su questi temi per cercare insieme di analizzare l'algoritmo di YouTube. Ovviamente questo non è possibile, ma abbiamo deciso comunque di fare un test globale, che quindi al quale potranno partecipare tutti, che semplicemente consisterà nel scaricare la nostra estensione browser che trovate al link youtube.tracking.exposed, e dopo averla installata guardare una serie di video tramite una serie di video su YouTube. Tramite la nostra estensione, in pratica sarà possibile confrontare quelli che sono stati i video suggeriti da YouTube su determinati temi. Quindi, anche se appunto questo esperimento non abbiamo potuto farlo, tra virgolette, dal vivo al Conchetta, lo riproporremo il 25 marzo, e diciamo che chiunque potrà partecipare, appunto scaricandosi l'estensione e guardando i video che andremo a guardare tutti insieme. Semplicemente la nostra domanda è se io guardo un video del Ministero della Salute, avrò un certo tipo di correlati, ma se io dopo quel video guardo 3 o 4 video di disinformazione e ritorno sul video del Ministero della Salute, è possibile che nonostante diciamo, siano stati fissati dei, del, del, del, insomma, delle pubblicità che rimandano sempre a informazione attendibile, nei miei raccomandati io ottengo lo stesso dei video di disinformazione. E insomma, in generale, la nostra domanda è come effettivamente si comporta l'algoritmo di YouTube anche in questo tipo di situazioni. Se vorrete, insomma, partecipare, basterà appunto seguirci dal nostro sito youtube.tracking.exposed. Abbiamo un pad che il cui indirizzo è indicato sulla pagina dell'host, sul sito blog dell'host, e quindi io invito tutti voi che parlate a mettere qua le indicazioni, benissimo, visto che già c'è, verranno messe qua tutte le indicazioni relative. E su YouTube si trova un sacco di roba a riguardo, perché naturalmente l'argomento genera attività e pensiero e parole, quindi un pezzo dalla regia. Grazie. Questo è un pezzo fatto da dei medici thailandesi che invita a lavarsi le mani. Mentre che parte la canzone, aggiungo che nel pad sono gradite tutte altre possibili forme di test dell'algoritmo di YouTube, quindi se avete qualche suggerimento, qualche esperimento che vi piacerebbe fare, tranquillamente potete segnarcelo lì e insomma avremo modo di organizzarlo con un test collettivo. หลังและง่ามมือถ้าที่3ฟอกหนึ่งข้อนิ้วถ้าต่อไปชิวๆฟอกหัวแม่มือถ้าที่5ฟอกปลายนิ้วมือถ้าที่6อื้อหือรักมือนะบ่าวสาวเอ้ยช่องกลางกับใครพวกเราต้องทำทุนนั้นอย่าทำแบบนี้แค่คนเดียวเชื้อโรคไม่เสี้ยวแล้วเหลียวกลับมาแน่นอนคนล้างมือครบขั้นตอนจะบอกมั่นใจแน่นอนให้เธอใบใจได้เลยมันล้างมือทุกอำเภอเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะรู้ไหมต้องสวมหน้ากากอนามัยกินร้อนช่องกลางกับใครพวกเราต้องทำเท่านั้นจากโคโรนาตัวเดียวอย่าทำให้เสี้ยวและเลี้ยวลบได้ไหมเพราะรักทุกคนหมดใจและมือของท่านไงขอเพียงพวกเราร่วมมือกันต้องล้างมือทุกอำเภอสวมหน้ากากอนามัยกินร้อนช้อนกลางกับใครพวกเราต้องทำเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลแพร ่ Ecco, allora qua su YouTube c'è un sacco di roba di questo genere abbastanza interessante. Quello che avete intrasentito prima era una voce che indicava che il pad che io ho, di cui ho parlato, è aperto a tutti, quindi è un modo, se qualcuno ascolta e ha delle cose da dire, di farlo. Nella pagina sempre del blog di Lost c'è anche l'indirizzo dell'IRC per collegarsi o un'email se qualcuno vuole scrivere. Va bene, torniamo a scuola. Vediamo che la scuola, l'istruzione, eccetera, ho detto prima che, diciamo, come la tecnologia digitale è stato veicolo di informazione, di paure, di tutta una serie di sentimenti ed emozioni, e anche si è aperta una strada enorme, ci sono state delle deroghe del mondo del lavoro, e anche la scuola, quel luogo in cui c'è quell'unità di tempo, luogo ed azione aristotelico, si è frantumata e distribuita ciascuno nelle singole case, e si sta dotando di strumenti di e-learning. Niente, anche su questo sarà molto interessante vedere come si esce. Passo quindi la palla a Circe, che ne sa sicuramente più di tutto. Ciao, io sono Agnese di Circe. Noi ci occupiamo di laboratori sulle nostre relazioni con la tecnologia, facciamo laboratori per bambini, adolescenti, formatori, insegnanti, genitori. Utilizziamo un metodo che chiamiamo Pedagogy Hacker. Di recente, cioè settembre scorso, abbiamo pubblicato il libro di cui prima abbiamo letto l'introduzione, Internet Mon Amour, che per inciso, a proposito di solidarietà digitale in tempi non sospetti, è da sempre disponibile interamente online all'indirizzo ima.circex.org. Nello scenario che noi immaginavamo in Internet Mon Amour, la grande peste di Internet, fatta dai dispositivi tecnologici interconnessi e dalle piattaforme sociali, ci portava a isolarci e a distruggere il collante sociale che ci teneva insieme. Oggi, visto quello che stiamo vivendo in questa epidemia, sembra invece che le piattaforme sociali e i dispositivi tecnologici siano le uniche cose che garantiscono la coesione sociale. Allora, quello che osserviamo è che, al netto del fatto che sia voluto o meno, nessuna dietrologia, nessun complottismo assolutamente, ma è in corso un grande esperimento sociale dove milioni di persone a casa, assistiamo a un'accelerata al digitale senza precedenti. Quindi da una parte abbiamo amici, amiche, conoscenti e persone varie che ci chiedono una soluzione per, ad esempio, per le videoconferenze, per fare le lezioni online, per delle piattaforme che possano superare i limiti delle piattaforme note, tipo le chiamate multiple di WhatsApp, eccetera. Ma quando proponiamo delle semplici soluzioni come Jitsi, che forse non molti conoscono, ma è quello che ad esempio stiamo usando in questo momento, che è utilizzabile da browser, non richiede l'installazione di nulla e neanche la creazione di account, risulta stranamente troppo difficile. E alla fine si torna al noto e rassicurante automatismo delle piattaforme proprietarie. Certamente le piattaforme che conosciamo, le piattaforme proprietarie, sono costruite in modo da risultare più autoesplicative. Quindi in qualche modo tendono a infantilizzare l'utente, guidandolo passo passo e rafforzando continuamente la sua autostima. Bravo, ce l'hai fatta, ancora due passi, tra poco sei arrivato, sei quasi connesso e così via. Quindi sono gamificate, cioè integrano degli schemi di gioco, punti, badge, classifiche in sistemi che non sono giochi, perché non nessuno sta giocando o ha scelto di entrare in un gioco consapevolmente. Cosa significa tutto questo? Che oggi, in questa situazione di crisi, di emergenza, abbiamo una finestra, un'opportunità per accorgerci e renderci conto degli automatismi comportamentali che stiamo cominciando a mettere in atto nello svolgimento di attività fino a ieri tipiche di poche persone, come le videoconferenze, le videolezioni e così via. Quello che accade nei momenti di crisi è che vengono a galla le vulnerabilità, sia personali che come gruppi sociali. Quindi osservarle e comprenderle può essere utile per trasformarci. Adesso noi, in questo breve intervento, vogliamo focalizzarci sulle cose positive, ma non nel senso di pensare positive, no, non nel senso pensa positivo, ma nel senso che vogliamo focalizzarci su quelle che sono esperienze interessanti di cui fare tesoro, in un tempo in cui di distopia ne abbiamo abbastanza. Questo è un percorso che abbiamo già iniziato con Internet Mon Amour, Quindi ci vogliamo concentrare su quella che chiamiamo ricreazione, c'è un capitolo apposta nel libro, ricreazione, perché le tecnologie non sono neutre, quindi vogliamo ricreare degli strumenti per interazioni conviviali possibili che non siano sottomesse alle tecnologie del dominio. E per anche osservare quelle che sono le opportunità, ovviamente non intendiamo opportunità di profitto economico, ma opportunità come occasione per trasformarci. Ad esempio, che cosa abbiamo osservato? Vediamo se Carlessi vuole... Eccoci. Ciao, io sono Carli di Circe. È una finestra importante questa, di occasione, di opportunità. Il primo punto di quello che noi chiamiamo pedagogia hacker è fermarsi e osservare e notare. Quando sei immerso in quello che Omot diceva, questo mondo digitale che ci sta venendo in casa, se ci fermiamo un attimo e guardiamo quello che facciamo, è il primo passo per poter vedere un po' dietro lo schermo. La prima cosa che abbiamo osservato è che è un momento straordinario di possibilità di gestire le cose diversamente. Abbiamo visto che fino a quando non si sono un po' messi d'accordo su cosa dire e come dire, non che siano molto chiare le cose, come è stato detto prima da chi parlava di dati medici e così via, in realtà le possibilità di gestire le cose diversamente ci sono già e ne abbiamo tante. Bisogna un po' tirarsi sulle maniche, darsi da fare. Chiaramente, come diceva Agnese, è un po' più difficile. Però il primo elemento è questa grande opportunità di gestire le cose diversamente. Quando chi gestisce le cose normalmente non è in grado di farlo, la prima cosa è c'è spazio per fare altro. E ieri ci siamo trovati con alcuni di noi di Circe in una stanza virtuale un po' come questa a chiacchierare. Con noi c'era anche Graffio, che si occupa da molti anni di e-learning e didattica a distanza, e per cui vi consigliamo, come abbiamo scritto sul pad, il suo blog di pillole di informazione digitale, che è graffio.org pillole. Dico solo un elemento per cominciare a buttargli una cosa, poi facciamo magari uno stacco musicale, così alleggeriamo un po' e poi ritorniamo. La prima cosa è quella dell'accelerazione straordinaria, da zero a tutto. Prima eravamo a zero telelavoro, poi adesso siamo a tutto telelavoro. La seconda cosa è che siamo tutti concentrati sul contenuto e il metodo è scomparso, e poi vediamo cosa vuol dire dopo lo stacco. E la terza cosa è la retorica del bene comune, che insomma, chi non si adegua comunque sta facendo qualcosa di sbagliato, e i discorsi sui dettagli li lasciamo a più tardi, e invece i dettagli sono quello che noi consideriamo più fondamentale. Perciò sono un po' queste tre cose che vorremmo approfondire dopo, sul concetto di appunto telelavoro e teledidattica, quindi il fatto che adesso siamo tutti a casa a fare ognuno le nostre cose, chi lavora, chi studia, siamo tutti un po' obbligati a entrare qua dentro, tutti obbligati a entrarci in un certo modo, che è quello che qualcun altro sta decidendo per noi, chi non lo fa un po' si sta opponendo al bene comune. Adesso mi sembra che ci sia uno stacco musicale, poi torna Agnese che aggancia il ragionamento. Stacco musicale, un pezzo di José Luis Sosa Gómez dal Messico, e il titolo è Canción del Coronavirus. Me dicen que en el oriente coronavirus nació, que primito de la influenza, la ciencia ya investigó. Pero allá en el gabacho un caso se reportó. Si viajaste a la China, vas a estar en cuarentena. Si andas allá, no regreses, te mandamos tu quincena. Pero la patria no quiere con el virus un problema. Dicen que en todo el planeta hay gente rete asustada. Pero allá en mi Veracruz, tranquila la paisanada. Como se llama corona, van a hacerlo micheladas. Eccoci. Circe, potete proseguire. Ecco qua. Allora, parlavamo, io non sento niente, ma spero che vada bene. L'accelerazione straordinaria, da zero telelavoro a tutto telelavoro. È brutta l'espressione didattica a distanza, ma è quella che si sta usando adesso, telelavoro. Insomma, questa è una situazione di emergenza in cui stanno passando delle cose che forse nemmeno in 100 anni di lotte sindacali si potevano ottenere. Fino a ieri, quando tu chiedevi di organizzarti con il telelavoro in molti ambiti, la risposta era: non c'è banda, la gente non sa usare gli strumenti, non c'è modo di verificare che le persone lavorino, e quindi, insomma, sarebbe bello fare telelavoro, ma ognuno continua come sempre. E se ne parlava da 10 anni almeno. Poi improvvisamente nell'emergenza, dall'oggi al domani, le persone si sono dovute in qualche modo accrocchiare per poter telelavorare. Chiaramente ognuno con le proprie possibilità, con i propri mezzi, con le proprie competenze, senza la possibilità di essere, come dire, accompagnati, aiutati, formati a utilizzare degli strumenti di lavoro a distanza in maniera competente, coerente, organica e strutturata. E questo chiaramente apre la strada all'adozione di strumenti e piattaforme proprietarie, cioè un'ulteriore privatizzazione degli spazi di vita quotidiani. Cosa vuol dire? Che chiaramente, siccome il pubblico e il privato sono impreparati a questa situazione, i primi che arrivano con delle soluzioni in mano, chiavi in mano, si accaparrano delle fette di mercato senza colpo ferire. I soliti noti, Google, Microsoft e così via, di cui ci hanno detto prima gli amici di Tracking Exposed che stanno facendo, diciamo, già da tempo degli accordi per essere al primo posto. Se la pubblica amministrazione arriva impreparata, chiaramente arriva il Microsoft di turno che dice: noi abbiamo la soluzione, ci pensiamo noi. Lo stesso vale per l'educazione a distanza, la teledidattica o come volete chiamarla. Non ci sono mai state sperimentazioni organiche, anche se a scuola se ne parla da molti e molti anni. Hanno fatto un registro elettronico, qualunque cosa sia, se funziona o non funziona, ma ancora una volta c'è uno spostamento di questioni che riguardano il pubblico e tutto il pubblico al privato. Il MIUR, che è il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ha appaltato a Microsoft e Google le piattaforme per la didattica, sostanzialmente. Quindi della didattica pubblica si occupano aziende private. E questo non è una buona notizia. E sono dei dettagli, si capisce che sembrano dei dettagli, però non sono dei dettagli, perché noi riteniamo che il focus sul contenuto, che è molto... ci viene detto in continuazione in questo momento, l'importante è far qualcosa, l'importante è il contenuto, ma così il metodo scompare. In fondo, che cos'è la didattica a distanza? È l'idea comune, è riportare l'esperienza di aula, e qui siamo passati all'ambito della didattica, riportare l'esperienza dell'aula, della classe, in una classe, un'aula a distanza, come il telelavoro sarebbe riportare l'esperienza lavorativa a distanza. Questo chiaramente non è possibile, perché le persone che lavorano davanti al computer sanno bene che non è come lavorare all'aria aperta o in fabbrica o in ufficio, è diverso quando sei a casa tua o in un altro posto da solo. La cosa fondamentale nella didattica, sottolineava il nostro socio Scream di Circe, è che gli aspetti fondamentali dei processi educativi, quelli che ci hanno toccato tutti, cioè per esempio un professore molto attento, un insegnante che ti dice una parola speciale in un momento particolare, una relazione con un compagno che ti aiuta, ti ostacola, eccetera eccetera, sono cose che succedono solo nell'aula o nei corridoi o nella classe, ma che comunque a distanza non possono accadere. Ed è questa situazione che genera l'apprendimento significativo al di là e spesso nonostante i contenuti che vengono insegnati. E quindi questo sfrondare, insomma, il surplus e dire: andiamo al nucleo, andiamo ai contenuti, fornite dei contenuti ai ragazzi, è un po' un modo per sfrondare in realtà tutti i contenuti importanti dell'educazione e, della, e anche dell'insegnamento. Si perde il cuore importante, cioè la relazione. Questo perché nel contesto destrutturato della relazione a distanza, della video lezione, non è quantificabile la relazione. Come si fa a dire una parola solo a un ragazzo o a essere o ad avere delle relazioni fra compagni? La scuola e l'educazione in generale da molto tempo si sta concentrando più sui contenuti che sul metodo, e la questione del metodo viene semplicemente, rimane talmente sullo sfondo da scomparire, e questo è esattamente il contrario di quello che pensiamo noi. Non solo il contenuto non è separato dal metodo, ma il metodo deve essere il contenuto. Quindi una lezione gestita con gli strumenti di Google, a prescindere dal contenuto, sarà la lezione fatta col metodo di Google. Questo vuol dire che i margini di libertà e autonomia tendono ad assottigliarsi fino a scomparire, e quindi che siamo in una specie di dittatura del puro contenuto. Quanto e cosa hai somministrato agli utenti? Quanto e cosa hanno assorbito della lezione che è stata erogata? Quanto e cosa l'insegnante è stato in grado di passare allo studente, come se lo riempisse, come un vaso che deve essere riempito di conoscenza? Questa è una diretta conseguenza del fatto che con le piattaforme di cui parlavamo prima, il contenuto è l'unica cosa che è quantificabile, valutabile e computabile, mentre il metodo è per eccellenza qualitativo. Dal punto di vista degli studenti è folle pretendere attenzione e apprendimento significativo somministrando e erogando delle lezioni a distanza, tra l'altro da parte degli insegnanti che sono del tutto impreparati alla peculiarità del digitale. Se è difficile mantenere l'attenzione viva in presenza, a distanza è tanto peggio. E qui entra la promessa della piattaforma, che è salvifica, di aiutare l'insegnante e attrarre lo studente con un metodo uguale per tutti che nessuno mette mai in discussione. Dal punto di vista dell'insegnante è la fine della libertà di insegnamento. Il docente deve usare un metodo che influenza e antidetermina il contenuto, cioè usa Google, metodo Google, usa Microsoft, metodo Microsoft, e quindi non può più usare un suo metodo. Non è che tutti gli insegnanti abbiano un metodo meraviglioso, innovativo e coinvolgente, ma quelle eccellenze che tutti come studenti abbiamo conosciuto almeno una volta non hanno più la possibilità di esprimersi. E qui c'è la retorica del bene comune a questo punto, direi. Sì, qua caschiamo di nuovo in quello che oggi sentiamo più che mai, che ci viene da parte di governi e piattaforme. Tutto è condito dal discorso che lo stiamo facendo per il tuo bene, tutto questo si fa per il nostro bene, il bene del lavoratore a casa, il bene dello studente a casa, il bene dell'insegnante a casa. La conseguenza è ovvia, che chi non si adegua alla produzione di video, audio e materiali da erogare a distanza viene considerato sprezzante del bene comune. Chi sottolinea che non è una cosa buona usare strumenti proprietari viene tacciato di non essere attento alla cosa importante, al contenuto, cioè a quello che sta accadendo ora, all'emergenza sanitaria. Quindi perché preoccuparci degli strumenti che usiamo quando quello che conta è l'emergenza sanitaria? È vero, ma l'emergenza sanitaria passerà, e rischia di restare l'introduzione di strumenti proprietari per lo svolgere mansioni lavorative ed educative, con tutto il corollario di sorveglianza, controllo, manipolazione delle interfacce, addestramento cognitivo e comportamentale di cui, come Circe, ci occupiamo nei nostri laboratori e nei nostri libri. Quindi quello che per noi è molto importante ricordare in questi giorni così di grande difficoltà è che non bisogna cedere totalmente all'emergenza, perché siamo sempre immersi in processi di lunga durata. Non è che tutto è sempre nuovo, tutto rientra in un processo, in processi, in molti processi di lunga durata che si influenzano reciprocamente. Senza le piattaforme digitali di massa oggi non sarebbe possibile il telelavoro e la teledidattica di massa, e neanche però la comunicazione istituzionale tramite messaggistica, cioè i vari tweet e post Facebook dei rappresentanti istituzionali, che sembra oggi una cosa normale, ma non è per niente una cosa normale. Quindi, ricapitolando, c'è un passaggio dalla competenza e conoscenza trasformazione all'addestramento, che è un processo di lunga durata, che oggi in uno stato di emergenza si accelera, ma è qualcosa che già sta accadendo da tempo. Quindi questo momento che stiamo vivendo è un momento di accelerazione dei processi in atto, dove si sposta la soglia di interazione lavorativa, di apprendimento, di intrattenimento, quindi vuol dire appunto telelavoro, didattica a distanza o anche intrattenimento, guardo film su Netflix, eccetera, dall'esterno, cioè mentre una volta andavo al cinema, andavo a scuola, lavoravo nel luogo di lavoro, all'interno. Adesso questo accade tutto dentro al tempo del mio quotidiano, al tempo della mia intimità. Quindi c'è uno spostamento nello spazio interno. Questo è anche un processo che avviene già da tempo. Quindi valutare le cose in modo diverso da quello che si valutano le cose in modo diverso rispetto a quello che avviene in presenza, in questo spostamento verso l'interno. E torniamo al grande esperimento sociale, che rimane lo stesso da anni: liberarci della libertà e della fatica di scegliere. Però non vogliamo lasciare chiudere questo intervento con queste cose appunto distopiche di cui ne abbiamo fin sopra la testa, ma vogliamo sottolineare alcuni aspetti positivi di questo momento di eccezionalità. E uno di questi aspetti positivi è il fatto che queste stesse piattaforme di telelavoro o di didattica online, nonostante siano offerte, tra virgolette, da grandi corporazioni, sono meno gamificate rispetto ai social network di massa che siamo abituati ad usare. E questa ci sembra una cosa positiva, comunque. E poi sulla gamificazione, andate a leggere Internet Mon Amour, se non sapete cos'è, adesso non abbiamo modo di approfondire, però è un aspetto positivo che comunque queste piattaforme siano meno gamificate. Poi l'altra cosa positiva con cui ci vogliamo lasciare è questo discorso delle vulnerabilità che emergono in questo stato di emergenza. Perché? Perché uno dei punti chiave della pedagogia hacker è quella di notare le nostre vulnerabilità. Notare e osservare le nostre vulnerabilità ci consente di trasformarci, di capire quali sono i nostri punti deboli e utilizzarli per cambiare e per lavorarci sopra. Ultima cosa, approfittiamo quindi occasione di questo momento come momento di sperimentazione dell'autogestione. Il nostro amico Ferry Byte ha raccolto un po' di indicazioni utili per quelle che definisce video chat didattiche. E potete trovare la sua ricerca, insomma l'elenco della sua ricerca, sul suo blog, che è scaccolweb.wordpress.com. E se andate sul pad, che è pad.cisti.org/p/l19, trovate tutti i link di cui stiamo parlando, e con questo ripasso la palla. Grazie Agnese. Allora do anche di nuovo l'indirizzo del blog di Lost che ho dato all'inizio, che è lost.abbiamoundominio.org. E adesso stacchiamo con un brano composto, come lui dice, dal cantautore Domenico Bini, famoso sul web e nel mondo, che ci dice cosa si deve fare. Che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare? La prima cosa è stare calmi. Che cosa possiamo fare? molto bene, molto bene. Il Bini non ci delude mai. Adesso vediamo Linoi che ci parla di un balletto tra l'amministrazione americana e una famosa multinazionale. Prego. Sì, è notizia dell'altro giorno, una conferenza stampa di Trump negli Stati Uniti che aveva annunciato il fatto che Google stesse sviluppando un grosso progetto relativo al coronavirus. Un'ora e mezza dopo la conferenza stampa di Trump, questa notizia è stata smentita dagli uffici di Google, dicendo che loro non stavano sviluppando un bel nulla, ma una loro società parallela stava sviluppando un possibile piccolo progetto riguardante i lavoratori della sanità in California, per cui una cosa molto, molto determinata e molto piccola. Quello che è il dato più interessante di tutta questa cosa, cioè del fatto che Google abbia smentito una dichiarazione pubblica in una conferenza stampa di Trump, è il fatto che effettivamente la questione delle tecnologie e dei dati in una crisi sanitaria siano effettivamente veramente importanti, quindi si stanno muovendo tantissime cose. Per cui direi adesso ancora un po' di musica e poi ci troviamo dopo. Nanny Gen, una ragazza, scusate, cinese, che accompagnandosi con l'ukulele, ha eseguito questa parodia di Sound of Silence con la mascherina, insomma, un video un po' triste. Dico. Adesso torniamo a Linoi, che invece ci dice due cose sulla Virus e il videogioco. Sì, in effetti dopo questo pezzo un po' pesantino è abbastanza difficile riuscire a tirare un po' su il tema. Però parliamo di pandemie e videogiochi, ovvero il fatto che le questioni delle pandemie e dei virus non riguardano esclusivamente il mondo reale e neanche il mondo delle tecnologie di cui abbiamo parlato prima, ma anche il mondo delle tecnologie all'interno dei videogiochi e videoludi. Ci sono stati dei casi di pandemie vere e proprie che hanno afflitto videogiochi online, creando dei meccanismi molto interessanti. Questo è il caso della pandemia che nel settembre 2005 colpì i videogiocatori di World of Warcraft. World of Warcraft è uno dei più famosi MMORPG della storia dei videogiochi, è un videogioco a cui si gioca online in massa, in cui si ha una partecipazione collettiva. Gli sviluppatori di questo videogioco a un certo punto realizzarono svilupparono una magia che poteva fare solo un boss, che si chiamava Hacker the Soulflyer, in grado di colpire le persone, ovvero i personaggi virtuali e i loro animali, con un meccanismo di corruzione del sangue. Il problema è che questo meccanismo, che doveva svilupparsi solo all'interno di quella scena del videogioco con questo boss di fine scena, si trasferiva poi anche in tutto il resto della durata del videogioco, portando alla morte abbastanza certa di personaggi dei videogiochi, di avatar e degli loro animali. La questione è diventata poi molto grossa all'interno di World of Warcraft, tanto che molte persone hanno smesso di giocare e altre hanno iniziato a vivere una vita più isolata all'interno del mondo di World of Warcraft per evitare di passarsi questo virus l'uno con l'altro. Questa vicenda è stata talmente corposa e talmente interessante dal punto di vista anche numerico che gli epidemiologi si sono messi a studiarla per capire qual è il comportamento dei videogiocatori, o meglio delle persone, perché alla fine i videogiocatori sono sempre persone, in caso di pandemia, in caso di crisi, in caso di malattie di massa. E ripeto, gli studi che sono stati fatti sono molto interessanti perché portano a dei risultati nei quali i videogiocatori si sono comportati come nelle classiche pandemie, come ad esempio la SARS e l'AIDS. Hanno evitato i luoghi affollati, non si sono trovati fra di loro, qualcuno è rimasto chiuso nella propria casa o senza neanche aprire il proprio account per diversi mesi. Insomma, un tipo di reazione che paradossalmente può ricordare anche quella che stiamo vedendo in questi giorni. Bello, Rinoi, se puoi metti sul pad, magari se c'hai qualche link su questa cosa. Adesso, sì, adesso sì, lo mettiamo con un altro stacco. E Zorman, un comico spagnolo, che canta una canzone che si chiama Coronavirus. Prego. Está aquí el coronavirus, mira cómo habla el coronavirus. Bye bye, chao, chao. Coronavirus. He leído en internet que se acerca el final y en internet nadie suele mentir o exagerar. Nunca ha habido otro virus que alarme tanto a la gente. Ébola, vacas locas. Esto es diferente, soy muy inteligente, así que escúchame bien. No compres nada en AliExpress ni en .2a100. Y si te cruzas con un chino, no te acerques a él, ni a un coreano o japonés. Esos son chinos también. Coronavirus. Coronavirus, ya está aquí el coronavirus. Mira cómo habla el coronavirus. Bye bye, chao, chao. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Ya está aquí el coronavirus. Mira cómo habla el coronavirus. Bye bye, chao, chao. Coronavirus. Cuando pongo la tele dicen vamos a morir, y si cambio de cadena dicen vamos a morir. La gente es un poco tonta, propaga el alarmismo, os lo digo desde el búnker donde me encuentro ahora mismo. La culpa de que se propague la tiene Donald Trump por no matar a cada chino que habita en Wuhan. No quería ser racista, pido pido perdón, pero sin chinos por fin podremos ganar al ping-pong. Coronavirus, coronavirus, ya está aquí el coronavirus. Mira cómo habla el coronavirus. Bye bye, chao, jiang. Coronavirus, coronavirus, coronavirus, ya está aquí el coronavirus. Mira cómo habla el coronavirus. Bye bye, chao, jiang. Coronavirus. Que no cunda el pánico, desde la prensa no queremos alimentar el alarmismo, solo proporcionar información de calidad. Última hora, tenemos la cura al coronavirus. Es un abrazo de vuestros familiares y un bote de tranquilizante. Coronavirus, coronavirus, ya está aquí el coronavirus. Mira cómo habla el coronavirus. Bye bye, chao, jiang. Coronavirus, coronavirus, coronavirus, ya está aquí el coronavirus. Mira cómo habla el coronavirus. Bye bye, chao, jiang. Coronavirus. E adesso, da tutti atteso, immancabile, la caroscopo di Demo, dell'Unità Club di Milano. E ora, un momento per la rubrica degli smanettoni stellari. La caroscopo, in versione SARS-CoV-19. Ariete. La mancanza di certezze che avete conosciuto all'inizio di questo 2020 proseguirà ancora, dal momento che ogni onda del web su cui navigate e dei media che ricevete è drammaticamente inquinata di fake news. Ma non temete, poiché le successive release dei vostri software avranno fissato il bug, riconsiderando lo stesso valore oggettivo della verità. Toro, cogliete l'occasione per tornare alla carica e nella solitudine unirsi col peer-to-peer, sia esso su Emule, Torrent, Osiris o quel che sia. Gemelli, tenete a freno le vostre paranoie. I complottismi sono simpatici sempre e comunque, però il Defender Europe è reale. Cancro, solo buone notizie per voi. Il vostro desiderio di solitudine verrà finalmente esaurito grazie alle misure emergenziali contro la pandemia mondiale in atto. Finalmente arriva un periodo di reclusione da quella vita sociale tanto ammaliante quanto spossante, e senza che nemmeno vi abbiano dato i domiciliari. Il crimine paga, ma quello informatico di più. Leone, cercate di non lasciarvi prendere troppo la mano con la sicurezza. Se una mascherina e qualche misura igienica sono buone precauzioni, installare tutti quegli antivirus che avete trovato o disconnettersi totalmente dal mondo virtuale e reale, per quanto sia una notevole garanzia, potrebbe essere un filino esagerato, almeno dal punto di vista dei vostri cari. Vergine, va bene fidarsi degli altri, ma prima di partire in quarta con le ricette di ammucchine e disinfettanti do it yourself, fate almeno un check degli ingredienti. Bilancio, potrebbe essere finalmente giunto il momento per capire come si usa quel pad per riuscire finalmente a lavorare online da casa. Scorpione, la paralisi Covid-19 vi coglie alla sprovvista, impedendo l'uscita di casa per qualsiasi ragione, persino per procurarsi quell'hard disk che vi è tanto indispensabile per archiviare tutto quel materiale scottante che da troppo tempo cercate di nascondere sotto il tappeto. Sagittario, sappiamo bene quanto bramate un'evasione da questo stato di controllo, sfidando tutte le ordinanze di lasciapassare. Ma fate attenzione, con il firewall non si scherza. Capricorno, mantenete la rotta. Sebbene vi sia potuto succedere, come a tutti, di perdere la bussola e abbandonarsi al panico davanti alle contraddittorie ed insensate disinformazioni dei media ufficiali, potrebbe essere questa l'occasione che da tempo si fiutava nell'aria per riconoscere l'incompetenza e cercare dei feed reader e delle fonti dirette più affidabili. Acquario, non vi fate prendere la sprovvista neanche dalla peggiore pandemia. Voi sì che eravate pronti da tempo, non con mascherine o disinfettanti vari, non con scorte d'acqua o bunker a prova di apocalisse, bensì con gli aggiornamenti freschi freschi al vostro sistema immunitario. Pesci, lati positivi delle misure di emergenza. La quarantena potrebbe essere una buona ragione per esplorare i protocolli di funzionamento interni ai vostri hardware personali. Eccoci qua di nuovo, siamo quasi alla fine di questa piccola maratona. Allora, uno stacco ancora in Tagalog, questa volta è una parodia di Mai Sharona e l'argomento è sempre quello. Qua di nuovo, allora chiudiamo, un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato, quelli che hanno ascoltato, un ringraziamento a Unit, a Circe, Agnese Carlessi, un ringraziamento a Trekking Exposed, un ringraziamento a Maurizio Pincetti, Linoi, ecco, ricordo il sito di Lost, che è lost.abbiamoundominio.org, da cui trovate i link alle tutte le cose dette, i materiali di cui abbiamo parlato. È inutile che ve ne dia tanti, partendo da lì riuscite a ricostruire tutto il giro. Avevamo in mente di invitare a parlare qualcuno. Avevamo per esempio contattato a Milano ZAM, che aveva fatto un comunicato abbastanza bello ad un certo punto, e poi ne ha fatto un altro quando hanno chiuso tutto, per raccontare come si muovono quelle esperienze che vivono già in qualche modo al margine della norma, e che però evidentemente in questo caso sono anche loro state travolte dagli eventi, e quindi niente. Potrebbe essere materia per un'altra puntata, chissà. Adesso cerchiamo di valutare un pochino come è andata questo esperimento, e niente, sulla questo stesso canale tra pochi minuti partirà un loop con tutte le pillole di Lost una dopo l'altra, che credo che andrà avanti fino a notte. Siccome immagino che avrete voglia di andarvi a fare una passeggiata sul vostro balcone, potete sempre riascoltarle partendo anche quelle dal sito di Lost. Va bene, grazie ancora a tutti e a presto. Ciao, ciao, ciao.